Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. In Italia si sta male, in Italia si sta male, in Italia si sta male, si sta bene, si sta bene, si sta meglio anziché male. È impossibile per le regole europee salvare in modo definitivo gli azionisti di quelle banche e quelli che vengono chiamati gli obbligazionisti subordinati. In Italia c'è l'amore. Questi obbligazionisti, lo ripeto, sono stati truffati. Se sei brutto, se sei bello, se sei ricco oppure no, oh, in Italia non ci sto. E questa Belpietro è diventata una repubblica bancaria, fondata sulle banche, non sul lavoro. I diritti delle banche sono maggiori dei diritti delle persone. Il Papa anche lo disse, salvano le banche con i soldi dei cittadini. Tanta civiltà, ma guarda tu, che fortuna restare ancora qua. In Italia si sta male. Io sono sempre a sciacallare, sull'immigrazione sciacallo, sulle banche sciacallo, sulla legge Fornero sciacallo. Quel pensionato pesa sulla coscienza di qualcuno che non ha fatto quello che doveva. In Italia si sta male. Signora, andrà avanti? No. Andrà avanti? Se ce la faccio sì. In Italia si sta male. L'ultima era la moglie del pensionato, che si è tolto la vita. Quello che ha perso tutto a Banca Etruria, 110.000 euro risparmi di una vita. Banche, banche, banche, soldi, soldi, soldi, mamma mia. Ragazzi, che inizio per questo venerdì. Ricordiamolo che venerdì si chiude la 136esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Decisiva, ma purtroppo non ha portato... non ha portato a un qualcosa di concreto. La 137esima però secondo me si affaccia al mondo come quella che potrebbe essere qualcosa che ci regala, 137esima la prossima. Intanto qui siamo a 24 mattino, saluto subito, ma ragazzi, ma che cosa straordinaria, ci manda un messaggio così: attaccare! D'altronde è venerdì, Lilian da Belo Horizonte. Attaccare! Eccola lì, ci ascolta in diretta, il numero è brasiliano, la foto è di una bella ragazza brasiliana. Ciao Lilian, che arrivi il saluto a Belo Horizonte, in Brasile. Allora, ci ha spedito al 349-238-6666 il messaggio, Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Eccola, ragazzi, qui non si può più dire niente, non si può più dire nulla. A 24 mattino siamo pronti con Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. E siamo pronti sia a parlare di banche, banche, banche, banche, banche. Adesso viene fuori tutto, adesso tutti sapevano delle banche che facevano affari, buttavano via i soldi, buttavano via i milioni. Ah, oggi Libero, lo cito perché, anzi eccoci qua, saluto subito il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Ciao Massimo, eccoci. Buongiorno. Oggi Libero scrive che Banca Etruria, tra le altre cose, ha buttato via quanto? 34 milioni? 34 milioni. 34 milioni, dai, bruscolini. Per una vicenda, no, di... è la vicenda che è divertente. Sì, hanno commissionato di fare una sorta di yacht, un panfilo a una società. Doveva essere il panfilo, credo, di Brad Pitt anche, no? Ma è stato detto, è stato tirato in ballo anche Brad Pitt tra le altre balle che hanno raccontato. In realtà sì, quella era una società che fingeva di costruire io. C'è uno dei campi che racconta nel numero oggi di Edicola, che quando avevano finito la chiglia la riaprivano perché non dovevano andare avanti. Cioè praticamente fate una società, dite che dovete fare lo yacht di Brad Pitt, vi fate dare un 34 milioni da una banca e poi niente. E poi c'entra anche il cardinal Bertone, ma adesso ci racconti. Cioè, Bertone c'è sempre Bertone. Finisce, però fatemi aprire il Parlamento e fatemi salutare anche lui, il grandissimo, che torna con noi, l'uomo più urticante del mondo dalla sua Sicilia, il nostro Vincino. Uno che i soldi in banca non li mette manco a morire. No. Tutte le fregature me le hanno date sempre tutte, guarda. Ma perché? Ma chi? Quale banca? C'è... quella toscana, guarda, quelle, tutte le banche toscane, una peggio dell'altra. Ma dai, adesso non fa... dei Paschi, ma, cioè, non lo so, sì. Non è che c'è, cioè, proprio, dovevi i soldi, prima il Monte Paschi. C'è una banca toscana che non lo so, che io proibirei alla Toscana di fare banche, forse non lo so, che l'hanno inventato le banche, no? Hanno un'esperienza pazzesca là e quindi sanno tutto. Si potrebbe fare una leggina. Poi, esattamente. Una leggina si potrebbe fare. La proponiamo alla Leopolda, questa Leopolda col morto che è iniziata oggi, no? Che... no, dai, adesso, è così, guarda, c'era un disegno sul foglio questo che è così, guarda, la Leopolda col morto, è un titolo da fatto, da libro, non lo so, è terribile, sì, ma sì, è un po' terribile questa, so, questa neanche Massimo De Manzoni, neanche voi l'avreste immaginata, la Leopolda perché purtroppo non è vero, il problema è che, sai, guarda in Veneto cosa sta succedendo, cioè, nel mio Veneto ce ne sono due di banche, che sì, la Popolare di Vicenza, abbiamo scoperto che persino la Serracchiani ci ha rimesso dei soldi. È vero, avete scritto pure la Serracchiani 18.000 euro col fidanzato arrabbiatissimo. Vedi Vincino che tutti vengono fregati, non è che... Ma io dico, proprio il sistema che non sì. Ma il sistema, ma poi soprattutto, ma perché tu Vincino, quando entri in una banca, ti fidi dello sportellista che ti dice, guardi, ho delle obbligazioni? Ma non è lo sportellista che trova. No, vabbè, il direttore, il vice direttore. Esattamente, l'impiegato là gli ha detto, beh, dice, pure in famiglia l'ho fatto fare a mia moglie. Ecco. Nella storia della Banca 2 c'è quello che aveva detto. E lì uno si deve insospettire quando uno dice l'ho fatto fare a mia moglie, è proprio lì che ti devi insospettire. È proprio lì che devi dire, l'ha fatto fare alla moglie. Questo è, mettiamo Renzi questa volta, cioè il problema è questo qua, Renzi non può sempre dare, no, qua è, cioè, o morivano, o salvava tutti o morivano tutti, questo è il punto, sì, una via di mezzo non c'è, non puoi salvarne tre e far affogare questo gli altri. Questo due, è vero, per oggi, guardate, poi anche Mario Giordano sulla Banca delle Marche, sempre sul Libero, cioè adesso De Manzoni, si viene a sapere tutto, adesso, come dire, tutti i casini... No, non è così, è che abbiamo una memoria corta. Mario Giordano su Libero oggi scrive cose che ha scritto in un libro un anno fa, sì, fondamentalmente. E non è così. Abbiamo raccontato sui giornali queste cose anche in occasioni meno drammatiche di queste. Purtroppo la situazione è quella che è. Noi spesso raccontiamo le cose, la classe politica continua ad andare avanti. La sua, e non solo la classe politica. Per esempio, cosa c'entra Bertone? Per esempio, Banca Italia, per esempio, ci sarebbero un po' di discorsi. È come no. Banca Italia dice, in realtà non siamo... Oggi c'è un'intervista interessante sul Corriere della Sera, un responsabile di Banca Italia che dice, ma in realtà non siamo noi a vigilare, un altro organismo, cioè... E poi dice Visco ha detto già da tempo che questi tipi di titoli andrebbero dati non ai correntisti, ma a persone che lavorano nel settore. Sì, no? Però Alessandro, a questo punto qualcuno deve spiegarci perché paghiamo, e non pochissimo proprio, sì, tutta questa pletora di questo carrozzone che si chiama Banca Italia. Perché il sistema monetario non c'è più, o comunque lo regola la BCE. Loro i controlli ogni volta si scopre che spendono qualcun altro, e loro non sanno niente. Allora, a me va bene tutto, non sono loro i colpevoli. mi devono spiegare che perché li paghiamo. Soprattutto, soprattutto c'entra Bertone. Ecco, io voglio tornare qua. Vincino, senti questa. Sai che ma tu ridi, ma dove ci sono soldi non si sa come, spunta sempre il cardinale Bertone. In questa vicenda di Manca Etruria, di soldi dati a questa società fantomatica che avrebbe fatto yacht, pare, almeno scrivete così su Libero, Massimo, che questa società dava dei soldi a Bertone, questo è. No, non è che pare, cioè la società dava una montagna di soldi a Bertone. A Bertone. Una montagna. Posso leggervi? Poi sì. 67.000 euro, più 20.000 euro, più 300.000 euro, più 70.000 euro. E quello è il terrazzino, poi imbiancare. E questi sono soldi accertati, nel senso che c'è un'indagine per bancarotta fraudolenta in corso su questa vicenda, su cui noi poi abbiamo messo le mani sulle carte, e quindi questi sono soldi accertati. Il problema è vedere a che cosa, perché questi soldi poi finivano in beneficenza. Vedi Vincino, beneficenza, poi dopo non si... A quanto pare sì. A quanto pare. Lui aveva la Banca Vaticana, quante banche aveva questo qua? Sì, infatti dice, perché non andava lo IOR a... No, questo qui lo IOR non gli bastava, andava a farsi dare i soldi questo anche per costruire chiese, per dare soldi a associazioni, La domanda, ma se sono vuote le chiese, adesso ce ne abbiamo tante, no, ma dici che non lo so, sono confuso. La domanda è, questa società non pagava gli operai, però riusciva a dare botte di 100.000 euro ogni volta che il cardinale Vincino, è così, è così. La debolezza della classe operaia è terribile per ora, non obiettivamente, insomma, sì, io sono di un'altra epoca quasi. Mi ricordo la Banca d'Italia dei tempi di Sarcinelli, di Banfi, di Coso, un faro in Italia, l'unico posto dove c'erano Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministri del Tesoro meravigliosi, era la Banca d'Italia, questa miniera inesauribile, e poi l'abbiamo usati tutti i migliori e quindi via. E via, adesso è rimasta, eccolo. Comunque posso dire, in questa società bei nomi ci sono, No, tra l'altro, a proposito, Scotti, c'è Gianni Rivera. Gianni Rivera, ma no, Gianni Rivera, ma Vincino, no, la vicenda sta diventando surreale. Gianni Rivera, ma come no? Guardate, vi riserveremo una sorpresa anche Gianni Rivera, no, Vincino, su Gianni Rivera mi arrendo, mi fermo anch'io. Qua siamo proprio ai fondamentali della nostra Repubblica, alla Costituzione. Tra l'altro, a proposito di nomi, allora, ha parlato per la prima volta e lo ha fatto Vincino, indovina dove, alla presentazione del libro di Vespa. Non sei mai andato a una presentazione, a una delle 400 presentazioni del libro di Brevet? Perché presenta un libro ogni due giorni? È lo stesso. Non lo so, perché è lo stesso poi, ma ci vanno poi i ministri. Sì, ci vanno. È andato al ministro Boschi, perché ovviamente, hanno fatto notare che il padre del ministro Boschi è stato vicepresidente a Banca Etruria per 8 mesi, non è che tempo di prendersi non si è preso niente, si è preso un sacco di guai, esatto, una persona per bene, hai usato le stesse parole proprio del ministro, sentite Maria Elena Boschi, ti sei salvato in corner, senti. Sicuramente il nostro governo che non ha fatto favoritismi, che non fa leggi personali. È ovvio che io conosco mio padre, so chi è, so che è una persona per bene, è finito un po' all'attenzione costante delle cronache, non tanto per quello che fa lui, ma perché è mio padre. Hai capito? È finita l'attenzione delle cronache, non tanto per quello che fa lui, ma perché è mio padre. Peraltro... Parole di Marina Berlusconi. Maria Elena Boschi era. Peraltro, vi segnalo questo. Alberto stasera su Repubblica. Non so, Massimo De Mazzoni, se questa vi era giunta, ma non c'è solo il padre. Sentite cosa scrive stasera su Repubblica. È il fratello. 185 milioni che si sono autoconcessi 18 ex amministratori di Banca Etruria, con 198 posizioni di fido finiti in sofferenza, era un settore curato da Emanuele Boschi, il fratello di. No, niente. Massimo, no, dico solo che a me è colpito molto l'intervento del ministro Boschi ieri, perché tra tante cose che poteva dire, una parola per il pensionato suicida poteva spenderla. No, lei è preoccupata solo per il papà, che sarà una persona per bene, sì, lo sarà. Sì. Nessuno può dire il contrario fino a prova contraria. Ma insomma, effettivamente era su questo molto dispiaciuta per il papà, forse gli poteva scappare che era dispiaciuta anche per il povero pensionato. Vabbè, Vincino, tu che dici? Insomma, non ha una grande esperienza politica, bisogna dire, è giusto, con una migliore esperienza politica più lunga forse avrebbe anche detto quell'altro, no? Avrebbe detto quella lì, sì. Però qua c'è anche la commissione politica banche, che è sempre quella perversa di sempre, insomma, Andiamo avanti, andiamo al traffico, che poi dai, rientriamo, magari parliamo di altro. Voglio sapere cosa ne pensa Vincino di Donald Trump, cioè un po' lo so. Duck, com'è che lo chiami? Donald Duck, Duck, Trump, vabbè. Sì. Donald Duck, Trump. Esatto, vabbè. Che però sta mietendo successi, almeno elettorali, nei sondaggi. E insomma, parliamo anche di altre cose, quindi politica. Parte la Leopolda. Fibio Milan, manda al traffico, in Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Gli anziani si fidano dei bancari, perché mia suocera ci ha lasciato tutti i soldi in mano a un consulente finanziario di una banca, perché era la signora della banca. E guai a dirgli che deve controllarle le cose. No, loro sanno quello che fanno. Sì, lo sanno, ti fottono. Siamo combinati male in Italia, perché devono mettere due sole leggi: chi ruba, tagliarci un braccio con tutta la mano, e altrimenti quelli che si mettono al governo si devono diminuire le paghe. Omina, e sono fiorentino. La mattina ho un po' più di dibattito, invece che con queste tutte canzoni, una di qua, una di là, fa adesso super classifica show, più dibattito, invece di queste canzoni di qua, di là, più dibattito, abbiamo capito, Toscano, abbiamo capito, meno super classifica show. Allora, niente, ci si fida delle banche, io questa cosa, per carità, ma non è che io devo essere scettico, però la gente si fida, hai capito, Vincino, si fida, cioè la gente non si fida del vicino di casa, del portinaio, del cugino, della nonna, ma appena entra in banca questa aria di fiducia, no, che si spande per la banca, per cui mi fido, no? Tu ti fidi? Assolutamente no, ma ecco. Poi sono svoltate un po' anche gli anni fa, le banche erano sempre affollate. Come le chiese, ci sono le banche online, dai Vincenzo, fai bravo, la gente ormai... Ma là è il terrore, siccome tutti entrano cioè dappertutto. Ho capito, che... ormai ti connetti, dai, fai i bonifici online. Ma si connettono anche gli altri, quelli là, quelli che ti vogliono, cioè entrano online, ti rubano tutto, per cui l'operazione online è il terrore, tu. Che dobbiamo aggiungere, Massimo, su questo? Dai, che parliamo. No, che infatti la media di età di quelli che vengono truffati con queste cose è abbastanza alta, perché poi appunto ci si fida, i giovani, quelli un po' più smaliziati, si muovono online e verranno depredati, come dice vicino, qualche hacker. Invece gli anziani vanno in banca, parlano, si confidano, cioè diventano quando poi c'hai 80.000 euro l'amicizia, non lo so. No, ma quando si stava in un rapporto, tu hai 80.000 euro e ti viene qualcuno a dire: guarda, mi ha fatto comprare anche mio papà. Queste cose qui funzionano. Poi sì, le banche in Italia non lo so, sarà che non falliscono mai. Vabbè. L'investimento più sicuro. E tu ti fidi? Sarà che io sono cresciuto col mito della favola di Pinocchio, no? Il gatto, la volpe, gli zecchini d'oro, mettili qui, ragione, che crescono. Hai ragione. A volte le favole quando mi hanno telefonato a casa per propormi questi problemi. Hai detto, sì, chi è il gatto o la volpe? Telefonano a casa. Sì, certo, chi è il gatto o la volpe? Vabbè, saluto Mauro Fieni, il nostro grande tennis coach da Hong Kong, che ci manda in diretta la foto dalla metropolitana di Hong Kong. lui vive a Hong Kong e fa il tennis coach, capito Vincino? E ci ascolta in diretta da Hong Kong. Questo, vuoi dire qualcosa a tutta Hong Kong che ti ascolta in questo momento? Che io avrei bisogno di dire, perché da 2-3 anni che non gioco a tennis, per cui un tennis coach mi servirebbe moltissimo. Io avevo un ritmo fenomenale, sì, ma poi a ping pong sono ancora molto bravo. Okay. Però... ma più incrociato o più lungolinea al dritto era... quello efficace era proprio il dritto, in tutti e due i modi il no, praticamente il rovescio, un po' scarso di rovescio a due però... mani, a due mani o a una come mano come Merlo, era meraviglioso il rovescio a due mani, Merlo Pietrangeli, sì, diciamo, sì, sì. Cioè siamo le a pericoli quei tempi lì, insomma, sì. Allora Donald Trump, caro Massimo De Manzoni, che fine farà Donald Quack Quack Trump, come lo chiama Vincino? È un buffone? È un buffone o no? Beh, ha la sua parte di buffone, ce l'ha sicuramente. Poi lo fanno più buffone di quello che è, perché poi lui dice bisogna controllare, limitare internet, e gli fanno dire bisogna chiudere internet. Dice bisognerebbe non far entrare più musulmani, sì, negli Stati Uniti, che è una cosa ovviamente molto impraticabile, però gli fanno dire bisogna mandare via musulmani che ci sono in Stati Uniti, sì, per cui lo fanno anche più buffone di quello che è. Anche comunque quello. un buffone che piglia consensi, senza però di lui i repubblicani perdono e quindi c'è bisogno di lui. Senti qua Vincino, senti Salvini. Sì. Salvini, e Salvini sta con Trump. Ad oggi sceglierei Donald repubblicano. Trump, ad oggi sceglierei Trump. Trump, di cui non condivido alcuni eccessi, evidentemente, cioè cancellare internet. Sta con Trump, era ieri da Giovanni Minoli, Salvini. Allora, che dici? Ha lasciato Marine per Trump, assolutamente. È logico, ha una sua. Comunque è istrione come tutti i politici, un poco, poi diciamo. Poi notare una cosa: negli Stati Uniti d'America, se uno era iscritto al Partito Comunista Italiano, non lo facevano entrare. Cioè, come dire, il 30% degli elettori italiani, gli elettori erano il 30%, poi gli iscritti erano di meno, però 1 milione di iscritti non poteva andare negli Stati Uniti d'America. E quindi nessuno, cioè, è normale. Eravamo un po' i musulmani d'America, perdona. I comunisti italiani, diciamo, anche quelli francesi, forse. Sì, vabbè, sto Donald Trump, gran lavoro per te, caro Vincino. Chissà quante vignette ti regalerà, insomma, questa è la verità. Siamo a 3 o 4, però andiamo avanti. Se diventa presidente, sì. Caro Vincino e cari Massimo De Manzoni, Vincino, per concludere, questa te la servo veramente su un piatto d'argento. Succede nella tua Sicilia, in un paese che adesso mi sono perso, in provincia di Catania, dove una consigliera del Movimento 5 Stelle è stata pizzicata dopo aver fatto una campagna contro Gettonopoli, perché si faceva portare la spesa durante il consiglio comunale da un impiegato del comune. Lei ha detto era solo una gentilezza che mi ha fatto. Succede a Mascalucia, in provincia di Catania, capito? Meraviglioso, guarda, assolutamente. Ha fatto bene, è il tuo momento, puoi dire quello che vuoi nei confronti del Movimento 5 Stelle, il portavoce. Quel nulla politico che è il Movimento 5 Stelle, il quale poi ogni secondo fa, cioè come ha detto il Papa, ma dai, come dire, ma non lo so, cioè la democrazia cristiana l'abbiamo già avuta, basta, non è insopportabile. La democrazia cristiana, cosa c'è? Ieri cosa, come ha detto il Papa, cioè ogni 3 secondi c'è uno 5 Stelle che dice come ha detto il Papa. Tutto materiale per il capo ufficio stampa del Movimento 5 Stelle Sergio Nazzaro, che ti ascolta e che metterà tutto da parte, farà un dossier su Vincino. Ti piace il dossier Vincino? Assolutamente sì. Benissimo, ottimo, va bene. Vi ringrazio, Vincino, e Massimo De Manzoni, di vice direttore di Libero. Alla prossima. Mattino ascolto su Radio 24 Alino. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino.